Questo spazio è dedicato al compagno Victor Herrera Covea, anarchico di 21 anni, arrestato durante la manifestazione del 2 ottobre 2009, mentre con altri studenti e studentesse ricordavano il massacro di Tlatelolco, dove centinaia di compagni e compagne sono stati assassinati nel 1968 dalla forte repressione dello Stato messicano. Oggi come allora, giovani come Victor gridano giustizia e per questo subiscono la vendetta di Stato. Victor è ancora imprigionato nel carcere di Città del Messico. A lui un abbraccio, i nostri saluti complici e solidali e anche un incitamento alle sue compagne e compagni, alla sua famiglia, al Comitato Libertà por Victor e a tutte le altre e gli altri prigionieri politici del Messico e del mondo. Liberi e libere adesso!